Quando scendo in strada coi miei bro, sentono l'odore da un chilometro. Fanno due tiri e mi chiedono dove sto. Dove sto? Mi chiedono dove sto. Perché ne giriamo una dopo l'altra, allo sbando come aeroplani di carta, con la svolta nei coglioni oppure nella scarpa. Una vista che sembra il lago di Garda. Io giro solo coi fratelli che tre minuti nel locale ne hanno accese 23. Mi guardano con le espressioni identiche, identiche, le espressioni identiche. Perché siamo matti, ci rompiamo il cazzo a fare come fanno gli altri. Per questo ne beviamo tanti e le fumiamo grandi, e ci mettiamo un'ora per scegliere i ristoranti. Poi dopo mangiato si ricomincia. Non siamo ragazzi di provincia, copriamo sui palazzi tipo i ninja. Torniamo a casa con le facce dei gorillaz. Quindi se esci con me, spero tu abbia capito che è importante. Non torniamo alle tre, perché ogni sera faccio come Fabio. Volo, volo, volo, volo, faccio come Fabio. Volo, volo, volo, volo alto, il futuro lo sto colorando. Dettagli verdi, oro bianco, di non spenderli, sono stanco. Frate, ancora non sai stare su un palco. Io faccio i dischi d'oro e vivo sopra un soppalco. Se pensi che ci ho fatto i soldi non hai capito come funziona. Non ci hai messo il sangue, parli soltanto. Sette dischi prima di una vera copia fisica, prima di andare sopra i colpi in classifica. Sai per me che cosa significa? Non sai per me che cosa significa? Sento questi che mi parlano di dignità. Dicono che la mia visione non è realistica, però io non li ho mai visti qua. E tu? Perché io non li ho mai visti qua. La sera mi spacco, perché da quelli come voi accetto il distacco. C'ho 26 anni ma addosso me ne sento 10 di meno, quindi è doppia la voglia di riscatto. E ogni volta che riempio il locale, mi sento come grosso dopo la finale. Che ci posso fare? Quindi se esci con me, devi imparare. Spero tu abbia capito che non torniamo alle tre, perché ogni sera faccio come Fabio. Volo, volo, volo, volo, faccio come Fabio. Volo, volo.